Probabilmente avete sentito raccontare anche voi la storiella del ritratto di Tamerlano, ma non me ne vorrete se mi permetto di riassumervela in breve. Dunque si dice che il grande Timur, oltre che zoppo e afflitto dal peggior carattere che si possa immaginare, fosse di bassa statura, mezzo calvo e guercio da un occhio, tutti i handicap che non gli avevano impedito di conquistare tre quarti del mondo conosciuto, ma che gli crearono non poche complicazioni quando il sovrano al culmine del suo potere decise di farsi fare il ritratto. Oddio, le preoccupazioni non le crearono tanto a lui quanto ai ritrattisti di corte. Infatti quelli che cedettero alle tentazioni del realismo e lo raffiguravano così com'era suscitavano le sue comprensibilissime ire e in men che non si dica finivano impalati. Gli altri, ammaestrati dall'esempio del loro predecessore, preferivano prestargli in effigie capigliatura fluente, occhi perfettamente simmetrici, gambe diritte slanciate, statura superiore alla media, ma così facendo richiamavano a tal punto per contrasto l'attenzione delle masse sulle caratteristiche fisiche effettive del soggetto che quello si incazzò come un matto e fece impalare anche loro. E la situazione delle belle arti nell'impero timuride era piuttosto precaria, restava un po' precaria finché non si scovò un artista ingegnoso che con piena soddisfazione generale raffigurò il suo signore di profilo a cavallo e con l'elmo in testa, a dimostrazione del vecchio assioma metodologico che la rappresentazione è sempre una questione di punti di vista. Chissà se questa vecchia storia era nota ai grafici e ai pubblicitari incaricati di realizzare il poster personale di uno dei protagonisti di questa campagna elettorale, un eminente candidato di cui non so se posso rivelarvi il nome senza venire meno alle rigide normative del garante. Proprio per venirvi incontro vi dirò soltanto che comincia per Berlu e finisce per Sconi. Ma certamente quei poveretti, i grafici in questione, hanno avuto lo stesso problema dei loro predecessori centroasiatici. Perché una volta deciso di raffigurare il soggetto come vuole l'uso di tre quarti di fronte in piano americano, si saranno trovati anche loro davanti all'angoscioso dilemma e della pelata che cosa ne facciamo. Il nostro candidato, come probabilmente saprete, è alquanto sprovvisto di capelli sopra la fronte, nel che non c'è niente di strano e neanche di disdicevole in un uomo di 56 anni, ma che evidentemente è tutt'altro che acconcio per chi si tutt'altro che adatto a chi si presenta con la caratteristica di inviato della provvidenza per realizzare la Seconda Repubblica, anzi il secondo miracolo italiano, almeno crede lui, perché che a mio avviso abbia ben poche possibilità di riuscirvi devo avervelo già confidato. E se è facilissimo nascondere altri segni dell'età, per esempio le rughe sotto una bella abbronzatura caraibica, e se nessuno protesta più di tanto se sui manifesti il sorriso viene vistosamente ritoccato e sbiancato, su un impianto fotografico di capelli qualcuno avrebbe potuto avere qualcosa da ridire, insomma. Avrebbe potuto vedervi, con la tipica malevolenza della sinistra, un indizio di vanità, che è una debolezza che non si addice a un futuro leader. D'altro canto quella fronte spoglia esteticamente non stava bene. Un problema. Per cui, dopo lunghe meditazioni, i responsabili dell'Associazione per il Buon Governo devono aver scelto una via di mezzo. Hanno messo i capelli, ma non hanno calcato la mano con il colore, li hanno lasciati un po' sul vago, come se nel manifesto l'abbronzatura del faccione sorridente del capo si scurisse dal naso in su, tendendo sempre di più al castano e confondendosi impercettibilmente con l'attaccatura dei capelli. Il risultato è che a una certa distanza l'immagine è sempre adeguatamente chiomata, ma se la esaminate da vicino, non che uno abbia voglia di esaminare quell'immagine da vicino naturalmente, e scoprirete che i capelli anteriori in realtà si vanificano e che la fronte è più scura del resto della faccia, ma come dire, è naturalmente glabra. Ecco, non facciamo del facile moralismo naturalmente. In una campagna elettorale si dicono tante di quelle balle e tante in particolare ne ha dette quel candidato e i suoi alleati che mentire sulla propria dotazione pirifera è un peccato assolutamente veniale. Anche il grande Cesare, Sivicet, aveva questo problema. Svetonio ci assicura che tra i tanti problemi che gli avevano conferiti o che lui aveva usurpato nessuno gli era tanto gradito quanto la prerogativa di portare in perpetuo la corona d'alloro. Ma Cesare a parte, a rifletterci bene, quello del manifesto, non è un leader politico come gli altri, come il suo non è un partito politico come gli altri, per ora è uno pseudo leader, autoinvestito di uno pseudo partito generato dalla notizia stessa della sua nascita. Un partito privo di struttura, privo di organizzazione, privo di militanti, senza alcun momento di decisione collettiva alle spalle, senza alcuna attività collettiva all'attivo o al passivo, che vive esclusivamente della presenza della propria immagine. È stato definito, credo acutamente, un leader virtuale. Beh, niente di più logico che un leader virtuale sia provvisto di capelli altrettanto virtuali, aggettivo che naturalmente non ha nulla a che fare con la virtù.